Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Mani fredde, cuore caldo. Conoscete questo detto? Bene, un gruppo di psicologi americani ha voluto vederci più chiaro ed è arrivato, amici miei, a delle conclusioni opposte. Sembra infatti che il cuore caldo, inteso come una buona predisposizione d'animo, generosità, ottimismo nei confronti della vita e del prossimo, sia tipico di chi ha le mani calde, tiepide o almeno non fredde. Adesso chissà, io però in questo momento mi sento le mani gelate, ma saluto Maria Giovanna Luini. Ciao Giovanna. Ciao, buongiorno a tutti. Medico, scrittrice, così ti do una bella stretta di mano. Tu ti fai condizionare dalla temperatura della mano che stringi oppure no? Condizionare no, però la noto. La noti. Noto molto, sì sì. Beh, ma anche perché è questa ricerca che secondo me è interessantissima dal punto di vista psicologico, ha anche una base evidente in termini fisiologici. Ho sempre pensato che un cuore caldo, quindi un'apertura di cuore e una buona circolazione del sangue, non potesse essere compatibile con mani gelide, perché o hai una malattia, direi no, cioè hai le vedi arterie. Lì il medico viene fuori. Sì, però è vero, perché a quel punto o hai le arterie periferiche, in particolare quelle delle mani, che hanno qualche problema, altrimenti non c'è un senso in termini fisiologici. Certo. Poi però, al di là della fisiologia, che però è importante, perché noi siamo anche fisiologia, c'è il discorso della emotivo, dell'empatia, dell'emotività, delle emozioni e dei sentimenti. È un quadro, quello del cuore caldo, anche della disponibilità nei confronti degli altri, che ha dei riscontri oggettivi anche ormonali. Tutti questi riscontri oggettivi vanno verso un calore in tutto il corpo, mani comprese, anzi direi mani in modo specifico, perché la presenza di nervi, di arterie, di vene nelle dita e nel palmo delle mani giustifica l'emotività che arriva anche lì. L'ho fatta un po' banale, ma è questo sostanzialmente. Quindi secondo me questa ricerca finalmente è arrivata. Allora, se abbiamo le mani fredde, cerchiamo un massaggino per avere delle mani che rappresentano il nostro cuore. Ma sì, ma anche perché quando studi medicina, pagina 1 più o meno, scopri che diventi tutta fredda, o almeno nelle mani, nei piedi, nel naso, o quando fa freddo fuori, oppure quando hai la reazione di fuga e di paura, che non è compatibile col cuore caldo, ovviamente. Il contrario è quando mi vaso di lato, quindi sono aperta, sono generosa, sono disponibile, e allora il calore va dappertutto. Fino quindi... a che diventa tutto un fuoco, però questa è un'altra puntata. Intanto grazie a Maria Giovanna Luini, ricordo il titolo del suo libro, dove in parte parli anche di questo, non di mani calde e di cuore freddo, ma dell'importanza anche dell'empatia, dell'energia, dell'apertura, dell'amore, che è la cura migliore. Sì, assolutamente. E che fa l'energia che circola in noi, che fa muovere il mondo. Grazie Maria Giovanna Luini. Che gelida manina, se la lasci riscaldare, cercare che giova al buio. Intanto che voi cercate di riscaldarvi le mani, io vado a scaldarmele stringendo una mano per dare il benvenuto alla dottoressa Lidia Rotavender, che è qua in studio con me. Buongiorno. Buongiorno. Ma buongiorno e bentornata. Belle giornate. Specialista in ematologia e malattie cardiovascolari da trombosi. Dottoressa, la temperatura delle mani, dei piedi, può darci informazioni sulla nostra circolazione? Può darci informazioni sull'elasticità del nostro sistema idraulico, che è come un grande acquedotto nel quale più o meno la quantità di sangue circolante rimane stabile. Sì. La pompa che spinge il sangue nelle arterie, lo richiama nelle vene, può funzionare in modo più o meno accelerato rispetto alle esigenze della periferia. E i vasi, cioè i nostri canali di irrigazione all'andata e al ritorno, possono avere una loro capacità di allargarsi per portare più sangue, quindi più ossigeno, quindi più irrigazione, o viceversa stringersi per risparmiare a favore di qualcos'altro. Facciamo un esempio molto semplice, parliamo di emozioni. Una volta le donne usavano arrossire, adesso non mi sembra che succeda più tanto, sinceramente. No. Però è bello lo stesso. Perché arrossiamo? Arrossiamo perché c'è una vasodilatazione del circolo arterioso del viso, perché qualcosa ha creato un maggiore afflusso di sangue al viso. Perché l'ha creato? Perché è partita un'emozione che si trasforma in ormoni e quindi una scarica di adrenalina, che è quella che ha fatto accelerare il nostro cuore, che ha cominciato a battere più veloce, ha mandato più ossigeno in periferia, le arterie di periferia si sono dilatate, ecco il rossore, e mi batte il cuore. Quando lo incontro mi batte il cuore, è vero, batte più veloce, e batte più veloce perché sta portando più sangue al cervello, che secondo me non sa più che come ragionare, cosa fare, ma perché è un modo per mandare, privilegiare con il flusso del sangue quell'organo che in quel momento sta lavorando. Digerisco, posso avere le mani più fredde o avere sonnolenza, come mai? Perché in quel momento lo stomaco è quello che prevale, perché deve lavorare, deve digerire. Quindi la sonnolenza dopo pranzo può essere un segno del fatto che di tot sangue, 5 litri circa che abbiamo circolante, c'è qualcuno che pretende di averne di più. E certo, ubi maior. E questo anche nelle mani, nei piedi, nel viso, nel naso, il naso freddo. Un classico, non solo dell'inverno. E non solo del cane. Ecco, ubi maior. Sicuramente una cosa è certa, alla circolazione il caldo e il freddo comunque piacciono, specie se alternati. E allora saluto il professor Nicola Sorrentino, specialista in scienze dell'alimentazione. Buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, che tra le sue specialità anche quelle in idrologia, climatologia e talassoterapia. Professore, abbiamo bisogno di lei, del caldo e del freddo alternati. Ecco, che piacciono alla nostra circolazione, non solo. Direi proprio che ci piacciono, perché l'alternanza di acqua calda con l'acqua fredda è il metodo più semplice e migliore per riattivare la circolazione. L'alternanza caldo-freddo determina una sorta di ginnastica a livello del sistema circolatorio. In poche parole, vene capillari si rinforzano. Però l'errore che fanno tutti è che l'acqua la usano troppo fredda. L'acqua non deve essere fredda, deve essere freddina ma non gelata. Vedi, freddina ma non gelata. Professore, sì, noi ci fermiamo un attimo, lei resti con noi, perché così scegliamo bene la temperatura dell'acqua e continuiamo a parlare di circolazione. Ma adesso, a proposito di circolazione, noi ci fermiamo, ma la nostra circolazione non deve assolutamente fermarsi. Andiamo a vedere che cosa succede nella circolazione, quella fuori di noi. Una pausa per andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme, tra poco vi aspetto. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Noi oggi parliamo di circolazione. In linea con noi abbiamo il professor Nicola Sorrentino, perché una cosa è certa, alla nostra circolazione piacciono il caldo e il freddo alternati, e ne parliamo anche con la dottoressa Lidia Rotavender, che invece è in studio con me. Mani, tiepidine. Normali, vero? Oggi. Normali, assolutamente normali. Professor Sorrentino, torniamo a lei. Caldo e freddo, però noi adesso stiamo cercando di scegliere la temperatura giusta. Acqua calda, acqua fredda, ma I gradi fanno la differenza. I gradi fanno la differenza e, ripeto, la diminuzione della temperatura dell'acqua deve essere graduale. Noi possiamo anche passare da un 15-10 gradi fino ad arrivare anche a 5 gradi. E nella pratica poi giornaliera, perché tutti ci danno sì, ma come? Anche semplicemente con una doccia. Quindi fare la doccia fredda per pochi secondi alla fine della doccia, fino ad arrivare a 30-40 secondi anche alla fine della doccia. Ma perché è importante questa alternanza di caldo e freddo, e soprattutto di acqua calda e acqua fredda? Perché con l'acqua calda i vasi sanguigni superficiali si dilatano, la circolazione aumenta e quindi favorisce il drenaggio delle scorie e delle tossine verso l'esterno. Con l'acqua fredda invece i vasi si contraggono, la circolazione velocizza, aumenta l'ossigenazione e migliora la circolazione anche profonda. Voilà, quindi anche a casa nostra possiamo approfittare dei vantaggi di questa alternanza. Sappiamo, professor Sorrentino, che nelle beauty farm e nelle spa vengono proposti percorsi, o meglio passeggiate, tra getti d'acqua fredda e getti d'acqua calda. La sensazione di pesantezza sicuramente svanisce, le gambe sembrano leggere e toniche, ma noi possiamo utilizzare questo metodo, questo approccio anche a casa nostra, semplicemente sotto la nostra doccia o anche nella vasca da bagno, professor Sorrentino. Certo. E le gambe diventano leggere come delle piumette. Certamente migliora la nostra circolazione, e dirò anche di più, basta anche a volte alzare le gambe semplicemente nel letto quando ci svegliamo e fare una cicletta a gambe levate. E voilà, ma con quanto diventiamo belli e ai tanti. Professor Sorrentino, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Allora, dottoressa Rotavender, noi abbiamo in qualche modo aiutato un po' la nostra circolazione, Sì. Ma stiamo agli indicatori che ci raccontano quanto, come e se la nostra circolazione è efficiente e funziona per bene? Abbiamo detto il caldo e il freddo... anche il colore, ma io aggiungo anche un altro segnale, il gonfiore. Certo. Quando noi avvertiamo, ad esempio, abbiamo a volte solo la sensazione di avere le mani o i piedi gonfie, ma a volte invece questa non è obiettiva. È obiettiva, penso alla caviglia, quando le scarpe sembrano pure improvvisamente diventate più strette, le calze lasciano il segno. Siamo portati a pensare che qualcosa non funzioni a dovere nella nostra circolazione. Quanto c'è di vero? La nostra circolazione è dotata di un sistema nervoso autonomo, i nostri vasi, che permettono ai nostri vasi, piccoli e grandi, di allargarsi o restringersi in funzione delle necessità. Quando noi stiamo, per esempio, a lungo seduti, senza muoverci, senza contrarre i muscoli delle gambe, la parte più lontana dal cuore sono i piedi. Cuore deve fare il suo sforzo per, quando si spinge, quando si contrae, manda il sangue nelle arterie. Quando si dilata per ricaricarsi, attira il sangue dalle vene. Ma nelle vene la pressione è molto più bassa. Quindi vuol dire che il sangue fa più fatica a ritornare a destinazione. Se noi stiamo in una posizione che è scomoda, con le gambe accavallate, a volte intrecciate, anche addirittura cartocciate, intrecciate, a volte addirittura sollevate, come purtroppo tanti quando possono permetterselo hanno l'abitudine di fare, perché abbiamo un addome piuttosto globoso o molto globoso. Che vuol dire ciccio? Vuol dire abbondante, un po' troppo globoso. Morbido rispetto al desiderabile. Globoso. Globoso non piace mai al paziente. Addome globoso è abbastanza convincente per farlo scendere. Quindi quando ci sono queste situazioni che si protraggono a lungo, perché a lungo cosa vuol dire? Qualche ora. Nelle quali ci dimentichiamo di avere i piedi, ci dimentichiamo di avere i polpacci, a quel punto può darsi come quando andiamo in aereo, scendiamo dall'aereo, avevamo tolto le scarpe e non riusciamo più a metterle. È ovvio che sia così, perché nel frattempo, per una questione proprio di posizione, è ristagnato un pochino di più del desiderabile il sangue nelle vene, quindi una parte della parte liquida del sangue è uscita, quella che chiamiamo siero, ed è andata a infarcire. Infatti sentiamo le gambe pastose, vediamo che abbiamo perso un po' il profilo della caviglia. Se questo accade in tutte e due le gambe non c'è niente di preoccupante, però bisognerebbe imparare qualcosa la prossima volta in quella situazione: lungo viaggio in macchina, lungo viaggio in aereo, posizione alla scrivania, ci siamo coniati anche un termine che è la e-trombosi, che sarebbe quella di chi sta tanto al computer. Ricordiamoci di avere le gambe, ricordiamoci di tenere la schiena dritta e ogni tanto di contrarre. Adesso siamo tutti qua che ci rimettiamo a posto. Di avere la schiena dritta, di fare 90 gradi fra il torace, diciamo il busto, le cosce, poi 90 gradi angolo retto, quindi fra la coscia e ginocchio gamba, 90 gradi gamba piede, e ci ricordiamo ogni tanto di contrarre tutto insieme, che sembra che se ci vede qualcuno può pensare che stiamo andando fuori di matto. La verità è che ci solleviamo leggermente, contraiamo i glutei, contraiamo diventiamo i polpacci, anche un pochino più alte, sì, dei saltelli sulla sedia, e poi ci vengono due glutei molto belli. Eccola qua, contraiamo intanto i polpacci. Che io contraggo, voglio chiederle anche una cosa: riesco a fare due cose insieme? È molto difficile per me. Quando noi, lei non ha mai provato quello che noi chiamiamo, noi che non siamo medici, gli spilli, il formicolio al piede, il piede addormentato, lo sbattiamo per terra, un po' si riprende. Quello è un altro settore, è il settore opposto, sono le arterie, vuol dire che siamo stati in una posizione nella quale non abbiamo permesso, ripeto, per un tempo sufficientemente lungo, qualche minuto, al sangue delle arterie di scorrere in modo adeguato. Cosa vuol dire? Se intanto io continuo con questa lei ginnastica. Continui, vedrà domani. Mamma mia. Domani è pazzesco. Non mi alzo? Domenica folle. Oppure... Ricordiamoci che abbiamo anche i polpacci da contrarre mentre contraiamo i glutei, e anche le caviglie da far ruotare, e anche le dita dei piedi, tutto insieme. Viene qualcuno a prendermi. E poi anche i pettorali, perché vogliamo risparmiarli, quindi i pettorali, quindi le braccia, perché tutto noi siamo... tutto muscolo, e se facciamo una contrazione, contraggo rilascio di tutta questa parte, focalizzando nella nostra visione tutti i pezzi del nostro corpo senza sapere come si chiamano, non, ma importa. Non importa, gambe, braccia, dorso, va bene, questo aiuta molto perché aiuta la pompa muscolare a riportare il sangue al cuore. Però mi aveva chiesto una cosa importante, che era: come faccio quando vedo gonfiore? Se il gonfiore è su tutte e due le gambe, e c'è una ragione per cui potrebbe essere successo, lungo viaggio in macchina, mi sono disidratata oppure mi sono addormentata in una posizione scomoda, muovendomi posso riattivare la circolazione e farlo andare via mettendo un po' le gambe sollevate. Se sento gli spilli possono essere dovuti sostanzialmente a due fenomeni. Uno, che è il più il più frequente ed è il meno riconosciuto, è la schiena. Dalla schiena, dalle vertebre, partono tutte le terminazioni nervose che vanno a innervare, quindi a portare elettricità a tutte le parti del nostro corpo. Ad ogni livello, fra una vertebra e l'altra, esce una serie di questi prolungamenti, che sono i prolungamenti delle cellule nervose che abbiamo in testa. Quindi prolungamenti molto lunghi, molto molto sottili, perché stiamo parlando nel microscopico. Se io comprimo uno di questi nervi, perché per esempio mi appoggio sul tavolo e mi appoggio, sono magra, mi appoggio su un tavolo e pigio sul gomito, può darsi che a un certo punto io non senta più le dita delle mani, soprattutto la parte del mignolo e dell'anulare. È quella che quando picchiamo forte sotto il gomito si chiama il nervo della bestemmia. Sì, perché viene la scossa. Esatto, esatto. È lo stesso meccanismo della scossa, è quello che comprimendo il nervo ci fa sentire meno. Muovendo la mano, questo va a posto. Quindi tutto ciò che muovendo le mani torna al suo posto non ci deve preoccupare. Adesso è un momento in cui c'è un cambio di stagione, incomincerà il caldo, ci sarà una vasodilatazione normale, coloro che prendono dei farmaci per esempio contro la pressione alta, quindi abbiamo un sistema che siamo fatti benissimo, abbiamo un sacco di valvole che ci permettono di sopravvivere anche alle cose più cattive che possiamo fare al nostro corpo, ma anche di adattarci alle cose buone. Faccio un esempio sul fenomeno di Raynaud. Raynaud non è una malattia, è un fenomeno. Cosa succede? Ci sono donne, giovani donne soprattutto, che molto spesso hanno improvvisamente le mani freddissime, ma soprattutto cambiano colore. Tre dita diventano pallidissime, due dita rimangono un po' più rosse. Questo è un difetto del microcircolo. Il microcircolo sono quei vasi microscopici che addirittura nutrono le pareti dei vasi più grandi. Quando queste si contraggono perché c'è una reazione emotiva, perché c'è una sparata di adrenalina, perché fa freddo fuori, per risparmiare il calore si contraggono, e a questo punto potrebbe essere che si contraggono in modo troppo esuberante, e quindi le mani diventano molto anche lì abbraccio le mie dita, le coccolo, le giro, le massaggio, volto, massaggio, e dovrebbe andare a posto. Allora, un ultimo consiglio per la nostra circolazione: ricordiamoci anche di bere. È la cosa più importante di tutte, perché se noi abbiamo un sangue che può scorrere fluido, e per essere fluido deve avere una proporzione adeguata fra parte corpuscolata, cioè cellule, e parte liquida, e quindi deve contenere una quantità sufficiente di acqua per, in modo da riuscire in 2 minuti a fare tutto il giro del corpo, a ritornare al cuore, andare al polmone e ritornare di nuovo al cuore. Se rapido, ci pensiamo, è una grossa rapidità, certo. Con 5 litri di sangue da pompare e da mandare ovunque, come fino alle venature delle foglie nell'albero con la linfa. Quindi idratarsi sempre, anche per un'altra ragione molto femminile, soprattutto quando fa caldo. Le donne sono soggette a infezioni delle vie urinarie. Le infezioni delle vie urinarie, quindi la cistite, sono molto più frequenti nella donna, primo perché molti germi vengono dall'intestino, e molto spesso nella donna l'intestino è in disordine. I germi scappano, vanno nella parte anteriore, e dove trovano una vescica infiammata perché non è stata svuotata adeguatamente, non si è bevuto abbastanza, su una parete infiammata i germi organizzano una festa, chiamano tutti i loro amici e diventano cistiti recidivanti. Dobbiamo bere molta acqua, soprattutto quando la temperatura esterna del nostro ambiente comincia a salire. Quindi non solo acqua calda e fredda alternata, come suggeriva il professor Sorrentino, per la nostra circolazione, ma ricordiamoci di bere. Venga, che le offro un bel bicchiere. Una bella bottiglia. Brava. Allora, intanto buona giornata a voi. Io ritorno domani, come sempre, a mezzogiorno per la bufala in tavola. Buonissima giornata da Nicoletta. Grazie, dottoressa Rotavento. Grazie a voi.